la temeraria, e come chi ti concesse d'ardire. Irene, sappi che entro quel nacco nuota la morte tua, sappi che Asteria infusa in cauto un dono, che se vien da sua mano certo è veleno. Sappi che parla Irene, che mia figlia perduta la vendetta e la difesa. Siedi, Irene, e tu, inimica, il cui valor già federea, che dici? Devi taverlan, vano sospetto, non dever mal di reggio labbro i sorsi. Oh, che sei disperata! O padre o amante, mi rassicuri prima. Fa che l'assaggi l'uno o l'altro, e bevo. Legge crudel, che si risolve Asteria. Che primo beve, Bajazet, ma son fila, Andronico, e il mio amante. Padre, questa è la morte che mi testi in difesa. Ecco la colpa, e al mio nemico intrepida mi valgo. Empio, questo è velen, perché al fallo mio la morte devo, al tuo dispetto la mia morte bevo. Sconsigliata, che tenti? Incauto amante! Stolto, e che pretendi, mi tolge a morte, e a tirannia mi rendi. Seguitelo, soldati, a cenni miei sia custodita, e io volevo il terreo di enorme tradimento, onde incomincia il suo castigo. Dalla morte è poco, dall'infamia sì, cerchi che Bajazete ne sia lo spettatore. Sigui del fiero al serraglio de schiavi, e vi ammonenti che la Asteria a lui presente sia, alla turba servil concessa in preda. Soffrirete d'onestà non nomi, la raccomando a voi, poiché a me resta onde togliermi a lui la via funesta.